Du sverder segeln den dag med rase. Tanta forte che non cederà, non sciorirà. Io lo veglierò, io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuore, povero amore. Forse ti rendrai a te uomini le carezze, cercherai a me. E se tornerai, c'è sorrisani e bellezza, troverai in me. Ma l'amore no, amore mio non può dissolversi con l'oro dei capelli. Finché vivo sarà vivo in me, solo per te. Solo per te.